La versione di Oscar, di Oscar Giannino. The future's in the air, can feel it everywhere. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in diretta agli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia in questo mercoledì 1 giugno, sono le 16:31 primi e 15 secondi, grazie per l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, per, lo sapete, segnalare temi, proporvi come ospiti oppure chiedere chiarimenti, domande eccetera eccetera. La trasmissione di oggi trae spunto da una notizia, io non la conoscevo, quindi colpa mia, perché la cosa viene presentata oggi ma ha già una storia alle spalle, che riguarda la città di Parma e riguarda in particolare un'iniziativa che si intitola Parma Io Ci Sto, che viene animata da alcuni industriali. E ne ha scritto oggi l'ottimo Dario Di Vico, è un giornalista della sera di cui ho grandissima stima, sul Corriere della Sera, quindi per più particolare andate a pagina 5 e trovate l'articolo che illustra appunto questo progetto. Il titolo del Corriere della Sera è "Quel progetto borghese per la riscossa di Parma", e il catenaccio recita: "5 imprenditori scommettono su turismo università per attrarre talenti e rifare la città". Allora, perché mi interessa particolarmente questo tipo di questa iniziativa in particolare, non solo questo tipo, ma questa iniziativa in particolare? Perché siccome mi avete sentito probabilmente tante, forse troppe volte parlare di cambiamenti dal basso del nostro paese, cioè senza solo delegare alla politica per poi lamentarsene eccetera eccetera, siamo oramai a ridosso del primo turno delle elezioni comunali in molti comuni italiani, lo sapete, si vota il 5, ecco, senza delegare si può cambiare molto la base. Io credo molto nella sussidiarietà, ci credono 7 milioni di italiani che sono impegnati nel volontariato a diverso titolo, nelle diverse associazioni no profit, chi ad assistere gli anziani, chi disabili, chi con iniziative di sostegno alla formazione. Però detto tutto questo, la particolarità di questa iniziativa, quindi chiedo soprattutto a chi è a Parma, se ci ascolta, di telefonarci per dirci cosa ne pensa, se si è già fatto un'idea o comunque se ascolta la trasmissione ora che la illustriamo, se pensa che sia una cosa positiva, e anche dalle altre parti d'Italia se pensate che sia giusto invitare altri imprenditori ad assumere iniziative simili. Io credo molto in questo tipo di iniziative, in questo caso stiamo parlando di quella di imprenditori. Non è così diffuso che grandi imprenditori insieme costituiscano un'associazione o un'iniziativa di questo tipo. Adesso ve la spiegheremo. È pienissimo di imprenditori che ovviamente testimoniano nei territori in cui operano il proprio impegno per la coesione sociale, e quindi si danno da fare per questo o quel progetto. Però qui c'è un'idea di costituire un polo di attrattività e di miglioramento del territorio, appunto senza delegarla, ma confrontandosi, quindi senza voler invadere il terreno delle istituzioni o sostituirsi tantomeno alla politica, questo mi sembra molto chiaro, ma lo sentiremo da uno degli animatori tra poco, per mettere a frutto la rete di queste imprese, la loro modalità di procedere, le idee, le loro iniziative, per accrescere come moltiplicatore quello che, secondo i diversi indirizzi della politica sul territorio scelta dai cittadini, sta nei diversi programmi istituzionali, come un corredo aggiuntivo, però civile, dal basso, all'attrattività dei territori, alla sua coesione sociale, al loro rafforzamento, visto che viviamo in un paese che ha perso allo stato alla fine del mese scorso ancora 8,4 punti di PIL rispetto al 2007. Allora, io credo molto a questo modello, ripeto, non solo quello degli imprenditori ma è quello già praticato da milioni di italiani. È ovvio che quando si tratta di grandi imprese il moltiplicatore è direttamente proporzionale a ciò che queste grandi imprese realizzano, alla loro rete di clienti, fornitori, di iniziative. Quindi è ovvio che è moltiplicatore da questo punto di vista. Aggiungo che personalmente ho due idee molto chiare, perché poi mi capita spesso anche per lavoro, lavorando per Assolombarda, di andare a convegni delle territoriali, di Confindustria e così via. Si tratta di distinguere molto nettamente, vedete, perché questo credo che gli imprenditori lo sappiano, ma bisogna dirlo a voce alta. Prima, ed è una mia idea, quindi magari sbaglio, qui non si tratta né di riproporre quello che a molta gente non piace, cioè il, tra virgolette, l'antico, vecchio, sa di vecchio, ed è vecchio in realtà, paternalismo di grandi gruppi industriali, che ha contrassegnato un'epoca lunga della storia dell'industrializzazione, non solo nel nostro paese, è stata una caratteristica tipica di tutti i paesi quando si sono industrializzati, cioè non ha a che vedere con una funzione dickensiana e paternalistica dell'imprenditore rispetto a chi sta peggio. Da questo punto di vista le imprese, e io mi auguro che lo facciano sempre di più, possono animare con i loro contratti aziendali un'integrazione dal basso del welfare, cioè offrire servizi integrativi rispetto al welfare pubblico nei loro contratti, contrattati con i dipendenti e con i sindacati, welfare aziendale, nidi aziendali e così via. Però non è la riedizione delle vecchie colonie della Fiat, per me che sono cresciuto a Torino, le colonie estive per i figli dei dipendenti, è qualcosa di completamente diverso, perché si applica appunto in una matrice di integrazione dei fattori di attrattività territoriali, confrontandosi con le istituzioni, confrontandosi con tutto il resto della società civile, confrontandosi quindi con tutto il terzo settore, oltre che con le altre imprese e con il mondo pubblico, adottando l'idea del confronto oltretutto istituzionale, cioè come a costituire una specie di comitato strategico allargato per la moltiplicazione di alcuni fattori che sono diversi da territorio a territorio, perché da territorio a territorio è diverso, non sono solo le specifiche del mix territoriale e produttivo che si proietta nel mondo, sono diversi i fattori per attirare da fuori un capitale umano meglio formato nell'università, accrescere la catena diretta tra la ricerca nell'università e il trasferimento tecnologico nelle imprese, fare sinergie su unificazione delle reti neurali, cioè quelle digitali praticate per l'accesso ai servizi e l'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni rispetto a ciò che le imprese già praticano nella digitalizzazione dei loro processi, prodotti e gestione all'interno dell'impresa. Cioè, si tratta di fare delle matrici comuni, per così dire. Ecco, questa cosa qua, che è diversa da territorio a territorio, secondo me può essere una delle chiavi per tentare di trovare fattori diversi da che cosa? Dalla scarsità delle risorse a disposizione dei comuni dopo i tagli di questi anni, e che si risolvono solo con aumenti assassini delle tasse locali, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che ci raccontiamo ogni giorno in tutte le trasmissioni a Radio 24. Allora, qui c'è una disponibilità diversa. Allora, vi dico subito che questa iniziativa che viene presentata a Parma oggi, cioè Parma io ci sto, e dopo alcuni passi che adesso ci verranno descritti, vede uniti imprenditori come gli imprenditori del gruppo Chiesi. Il gruppo Chiesi è una grande multinazionale della ricerca farmaceutica italiana, presente in Italia e all'estero, con migliaia di dipendenti e moltissimi ricercatori che vantano un elevatissimo numero di brevetti già registrati e ne registra ogni anno, quindi c'è una densità di ricerca scientifica di altissimo livello in questa impresa, che ne fa un campione nella farmaceutica italiana. C'è il gruppo Barilla, quindi c'è Guido Barilla impegnato, c'è Andrea Pontremoli del gruppo Dallara. Gruppo Dallara, per chiunque sia un appassionato di quattro ruote, a presente di che cosa stiamo parlando. C'è il presidente della Fondazione Cari Parma, Paolo Andrei. C'è Alberto Figna, che è il presidente dell'Unione Industriale. Allora, per spiegarci bene da dove nasce questa idea, quali sono i suoi limiti precisi nel perimetro rispetto alla politica e alle istituzioni, e quali sono gli scopi e quali sono i suoi metodi, abbiamo con noi, e lo accetto e lo ringrazio, voglio dire, per il tempo che ha ricavato dai suoi impegni, Alessandro Chiesi, che appunto è componente del comitato direzione della Chiesi Farmaceutici S.p.A. ed è all'interno dell'impresa, è il responsabile per il Sud Europa. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Chiesi. Buon pomeriggio, grazie a voi di avermi invitato. Allora, ci spiega da dove nasce questa idea e un po' cosa avete in testa? Questa idea nasce probabilmente davanti a un caffè, come tante idee. Discussione con un amico se si poteva fare qualcosa in più, se si poteva fare meglio per il nostro territorio, che insomma conoscete, per chi conosce Parma, per chi legge di Parma, Parma è una bellissima città, un bellissimo territorio in cui, devo dire, si fa tantissimo, si sta bene, che ha una bellissima storia, che ha avuto alcune vicissitudini che così ci hanno un po' fatto, ci hanno un po' demoralizzato, mettiamola così. Cioè, diciamo, dalla crisi Parmalat in poi, il più grande crack della storia italiana, a il fallimento della politica con la precedente giunta, al disastro del Parmacalcio e così via, insomma, molte dure vicende. E quindi, niente, da lì è nata questa discussione sul fatto che fosse, si potesse forse provare a fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. L'ha detto lei prima rispetto all'impegno che già, nel nostro caso, almeno come imprenditori, già mettiamo. E niente, da lì sono nati un po' di pourparlers, di confronti, anche qualche analisi per capire meglio la situazione, e alla fine questo gruppo di persone, con questo gruppo di persone, ci siamo detti che forse si poteva pensare a una formula, che è quella appunto che poi ha preso il nome di Parma, io ci sto, per mettere a sistema gli sforzi, le idee, la voglia di fare dei cittadini, della comunità, perché ciascuno si attivasse per il futuro del nostro territorio. Le ragioni, perché da un lato abbiamo tutti la nostra città e il nostro territorio nel cuore, ma anche, e credo di poter dire soprattutto, perché abbiamo degli interessi importanti nel territorio, ciascuno per la sua parte, ciascuno per il suo ruolo. Oggi come oggi, io di nuovo parlo dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista di imprenditori. Fare impresa in maniera sostenibile non è di fatto possibile se non in un territorio che a sua volta si sviluppi in maniera sostenibile. Questo al di fuori della retorica, è veramente una questione di interesse concreto in gioco. E in questo voi vi confrontate in maniera autonoma con la politica e le istituzioni? Faccio una premessa che ritengo doverosa: il nostro non è un progetto politico, partitico, elettorale. Nessuno di noi ha l'ambizione, almeno nel futuro visibile, di fare di scendere in politica. Detto questo, con la politica, con le istituzioni soprattutto, certo, ci si confronta e anzi l'idea è che si lavori insieme. Di nuovo, lo spirito è quello, facciamo in modo che lo spirito non sia quello del chi dovrebbe fare qualcosa e non lo fa, piuttosto che chi ci dovrebbe mettere i soldi e non ci mette. Abbiamo parecchie cose, abbiamo davvero, ripeto, Parma ha la fortuna di essere un territorio ricco in tutti i sensi. Tiriamoci sulle maniche e vediamo che cosa possiamo fare con quello che abbiamo, usandolo meglio, mettendolo a sistema, facendo, come diceva lei giustamente, creando un effetto di moltiplicazione che nasce dalla sinergia, dal fatto che ci siano delle priorità condivise, insomma si possano coordinare gli sforzi. Ora, ciascuno fa la sua parte. Lei lo sa benissimo, e però questo a me tocca chiederlo, no? Come giornalista, insomma, non è un mistero, io tifo per il mercato, per l'impresa, però detto questo bisogna tenere conto dei fattori di fondo, no? Cioè il bilancio che abbiamo di 20 anni a questa parte, per vicende che non riguardano Parma, ma sulla scena nazionale sono avvenuti, di imprenditori che hanno voluto fare politica e così via, ha portato una parte dell'opinione pubblica a diffidare ulteriormente. Già c'è un pregiudizio che è storicamente diffuso nel nostro paese, che non è mai scomparso del tutto, verso il fatto che le imprese siano solo titolari di interessi, perseguono i propri interessi, se fanno cose pubbliche lo fanno solo per i propri interessi. Lei l'ha detto qual è l'interesse. L'interesse è che ovviamente la produttività, l'efficacia, il funzionamento delle catene logistiche di trasporto, il reperimento di capitale umano ben formato e la promozione del miglioramento del capitale umano, che si può fare anche nelle imprese, basta con i mondi separati della formazione pubblica da una parte, delle imprese dall'altra, sono tutti fattori di interesse. Però il problema è che e quando c'è un ambiente circostante territoriale che funziona meglio, tutti ne guadagnano, anche l'impresa, ma anche i cittadini, il terzo settore, tutti quanti, insomma, e anche le istituzioni. Questa diffidenza a Parma c'è come altrove, meno che altrove, più che altrove, secondo lei? Io non ho il polso di tutta la situazione, capisco il discorso. Tra l'altro ci tengo a dire che questa iniziativa prima e più che dalle imprese nasce dagli individui, certo. Perché è un aspetto importante, cioè noi ci attiviamo come individui che hanno degli interessi in gioco, l'impresa che sta dietro di noi, però la faccia ce la mettiamo come persone e credo che questo sia il fattore che ci accomuna con tutti gli altri 450.000 cittadini che stanno nel territorio di Parma. Ciascuno davvero può, come individuo prima di tutto, fare la sua parte, pensando che la sta facendo per il futuro del nostro territorio. E noi veramente questa iniziativa l'abbiamo pensata così, ci mettiamo in gioco come, lo dice sempre Andrea Pontremoli, come accendini, è un motore che favorisca un movimento, ma che poi deve diventare un movimento di tutti, se no non siamo noi, non siamo noi cinque, non sono le nostre imprese che fanno le cose, anche perché, ripeto, stiamo già facendo dell'altro, questo è davvero qualcosa che funziona se diventa uno sforzo comune. Allora, abbiamo un minuto di informazioni sul traffico, informazioni di servizio e poi torniamo con Alessandro Chiesi che ci sta spiegando questa iniziativa che parte a Parma, io ci sto, cinque individui che però dicono diamoci più e meglio da fare, ciascuno con la sua esperienza di impresa o associazione di impresa dietro, e vedo anche che ci sono delle telefonate, tra un minuto torniamo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a parlarvi di questo Parma Io Ci Sto, un progetto, un'iniziativa civica che unisce alcuni individui, imprenditori o in associazioni di impresa. Abbiamo con noi Alessandro Chiesi del gruppo Chiesi, un grandissimo campione della farmaceutica italiana sui mercati mondiali, che ci ha illustrato alcuni tratti. Ci chiede per esempio Claudio da Parma con un SMS, ma in concreto di cosa parlate? Allora io ti riassumo, Claudio, i primi esempi che trovate anche oggi sul Corriere della Sera, che sono proposti da Parma Io Ci Sto al centro di questo confronto e di queste iniziative. Primo, ristrutturare il quadrilatero culturale del centro storico di Parma, che comprende gioielli come la Camera di San Paolo e il Palazzo della Pilota. Secondo, creare in collaborazione con l'Università un Dipartimento di Scienze Alimentari. Terzo, rilanciare il Festival Verdi, anche con un fuori festival. Quarto, creare un chilometro verde nella zona che corre lungo l'autostrada a sud di Parma. Quindi, come vedete, sono progetti trasversali per l'attrattività della città. Sentiamo cosa ne pensa, o l'impressione che hanno alcuni dei nostri ascoltatori che hanno telefonato. Dario, dalla provincia di Udine. Prego, Dario. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io negli ultimi anni per lavoro, devo dire, capito molto spesso a Parma e devo dire che sono molto contento di questa iniziativa, perché Parma è una città ed è un territorio che proprio ti trasmette il senso della vita. Io vengo dall'est, inteso come Friuli, Venezia e Giulia, dove abbiamo visto che anche il tessuto delle aziende nella nostra zona si producevano quasi il 60-70% delle sedute italiane, e solo per delocalizzare, per andare a cercare un profitto negli stati confinanti, Slovenia piuttosto che Romania, abbiamo lasciato abbandonare quello che invece vedo che a Parma e nella zona di Parma le aziende cercano di portare avanti con molto interesse e con molto costrutto per quanto riguarda l'area, ecco. Quindi lei è uno che, diciamo, confida, per così dire. io confido e poi auspico che aziende come Chiesi, come il gruppo Barilla, piuttosto che la Bonatti, che sono aziende molto, molto importanti del territorio, possano essere un po' anche da faro per altre aziende in altri posti in Italia, dove Parma forse di abitanti fa circa il 20% di quello che fa tutto il Friuli. Però voglio dire, queste queste testimonianze spero ed auspico vengano prese anche da altre realtà per far sì che si possa sostenere sempre di più il nostro territorio. Dario, le faccio un'altra domanda, visto che lei da non parmigiano, però si reca spesso, come ha detto. Si è fatto anche un'idea dell'amministrazione attuale, lo sapete tutti, cari ascoltatori, Parma, Pizzarotti, il problema aperto con i 5 Stelle e così via. Però si è fatto un'idea, che dice? Ma che impressione io, guardi, mi sono fatto l'idea degli amici, fra virgolette, sì. Quindi di coloro con cui collaboro e che poi hanno gli sfoghi che abbiamo noi su quelle che sono le tasse e l'impegno per il territorio e tutto questo. Devo dire che su Pizzarotti io ho sentito parlare molto bene, poi se dobbiamo inquisire qualcuno perché fa il bene di un comune, quindi delle tasche dei cittadini che pagano le tasse, solo perché poi non ha fatto i passaggi che la legge, queste cose poi lasciano secondo me il tempo che trovano. Comunque, lei registra che nel suo circuito di contatti il giudizio è positivo, ma questa è una domanda che io però non faccio ad Alessandro Chiesi, apposta perché di questa iniziativa parliamo con il limite che ha esplicitamente individuato, che secondo me è molto importante, Alessandro Chiesi prima, e cioè che non si tratta di un prodromo, di un preparativo, di un primo tempo per poi qualcuno di loro scendere in politica, no, è una cosa fatta in un ambito completamente diverso. Le posso chiedere per il vostro gruppo, il gruppo Chiesi, che ha la specialità che ho ricordato prima, voi avete un'integrazione media, forte, fortissima o di che tipo? Per esempio con il polo accademico e dell'università che sta a Parma. Ovviamente immagino che abbiate rapporti con centri di ricerca anche altrove, visto che siete un gruppo attivo su moltissimi mercati internazionali, ma all'origine del gruppo questo rapporto ha contato molto, è stato un fattore abilitante oppure non troppo? È stato un fattore importante, specie nella fase di crescita della nostra azienda, anche perché c'è, forse le due cose si sono in parte alimentate a vicenda, ma c'è un polo nell'ambito delle scienze della vita, chiamiamolo così, abbastanza forte storicamente a Parma. E, man mano che siamo cresciuti, come ha detto lei, poi la rete delle collaborazioni si è ampliata, sia a livello italiano che a livello internazionale. Però questo resta un problema. Io dico, in Asso Lombarda, dove voglio dire siamo top nel ranking internazionale, le imprese concentrate tra Milano e Lombardia, delle citazioni, la densità di citazioni nei journals internazionali specializzati, nelle life sciences e così via, però poi uno va a vedere il trasferimento tecnologico nelle imprese, resta un punto debole del nostro sistema, che secondo me è una responsabilità un po' bilaterale, un po' delle imprese, soprattutto quelle medie, che non hanno risorse specializzate all'interno nel fare scouting all'interno di quello che si fa all'università, e poi nella ritrosia che resta molto forte nell'ambito universitario italiano a progetti davvero di cooperazione codefiniti con le imprese. Non è un po' così? Mi sento di dire di sì. In generale pensiamo alle tante aziende di piccole e medie dimensioni che poi rappresentano la gran parte, certo, per esempio, del nostro tessuto produttivo in ambito agroalimentare. Parma, al di là della farmaceutica, certo, ha lì la sua prima punto eccellenza. E lì obiettivamente c'è un percorso per tante aziende da fare in termini di proprio capacità di riconoscere il valore aggiunto che ci può essere. È un tema fortissimo quello dell'università, che continui a fare ricerca, che non si limiti a insegnare, ma faccia ricerca, perché è quello che ti permette appunto di davvero lavorare con le imprese ed essere in connessione con il mondo. E devo dire che da questo punto di vista l'Università di Parma, con la nuova amministrazione dell'università, insomma, sta facendo un bel salto di qualità, con tutte, immagino, i problemi che hanno di burocrazia, però di burocrazia e di bilancio, però se non altro hanno hanno messo questa cosa nel mirino, hanno capito. Perché si tratta molto spesso, prima che dei soldi e della burocrazia, che sono le cose più difficili ovviamente, hanno bisogno di tempi lunghi, si tratta anche un po' che l'ascoltatore di cambiare la testa, e a me questo piace di questa iniziativa di Parma, è una iniziativa pubblica, aperta, per dire cambiamocela insieme la testa, ibridiamoci ciascuno con il meglio di ciò che ha, ripeto, imprese che perseguono l'utile, come ovvio, terzo settore, rete delle istituzioni, ciascuno nel suo, però guardate che così più rapidamente la cambiamo l'Italia, se non restiamo solo divisi a lamentarci. Grazie Alessandro Chiesi, continuate sulla 24, appuntamento con me Alessandro Mino domani mattina alle 8:15, attenti a noi due.